c'è la cava un po' di ustio. Lo già usata, sto scendo dalla luce, un attimino che faccio il capito. Sì, va bene. Cazzo, dopo tanto tempo sta entrando lo scassaccato, adesso si gioca con la macchietta a pipì. E invece tornate là, io vado a cercarlo a vedere chi è. Cosa? Subito. Già sappiamo chi è, c'è un bel cazzo, intanto questa adesso va a fare gli spetti, ma non lo voglio dire, va. Intanto non adesso a caso c'ha anche Antonio, la radio, quindi poco del lato. Per gli spetti sotto le cusce della mamma. Adesso gli altri capelli, ci mariamo la radio di Baia. Fuori, che ne la rete? Poi lo vedremo, lo muro. Per carità. cose arrivano qua. Se io tocco i frutti di mare, prima cosa, te ne via cagata. Infatti io avevo detto, cazzo, se arrivi da Tarino di Cromento, dico, non c'è affogato il guardo della Marrucca. La Marrucca è fatto qua, se poco poco mi dica che cosa, guarda, lo polverizzai, c'è un disintegreggio, Ma come te le guardi, te che ti imbrutti me. Caccio i guanti di quando lavorava al comune, quelli di Cuglia. Già, tu pensi che basta un paio solo. Dice che non ti sento io, mi hai pigliato la parola da bocca. ma che hanno messo anche quelli da chirurgo sotto. Capito? Quelli di Cuglia serve a sai che si sfacciano quelli bianchi, no? Devono essere guanti anti-inquinamento. Non ti preoccupare. Antibronospera. Servirmi, antibronospera. E poi, guarda, bisogna fare pure la portata, capite? Se è da qui, è andata a stare. Ci vedi tutti bene, se vuoi farmi dire, io ando con la macchina e te, ce la puoi invitare pure a me, a cui dimmi, per il tuo migliore di vacanza, le dico. Mi lasciano questi che cazzo ne mancano, ma io sono come mancanti vedo. Ti dico tutta roba di quel, un paio di pepitini bianchi, cazzo, con le lagune date così anche. Realizzate. Ogni mancante faccio la pesciazione, tu fai la pesciazione pure la portante, cosa vuoi che ti dica? Conosce pure che fa la fissazione che ci faceva giù in tutte le chiese, e un altro che fa la fissazione nel senso, e tu c'ha per scappare di fissazione. Oh, cala è, diciamo una cosa, cala è un baracchino più costoso. Cosa? Anche me un pareggio, per qualcosa possibile, ma poi la portate giù. Adesso, allora così metti la portante di marca. Ah no? Thank you. arrivato anche a Massi. Sono entrato, però non ho sentito nessuno nella radio. Ho messo varie frequenze, ma non c'era nessuno, forse perché era presto. No, come no, se metti a 7160 si sente sempre, mentre invece quello della 27 da Roma si sente solo con le propagazioni. Ah, ecco, perché parte da 0 a 30, la frequenza io qui l'ho messo alla 27. No, cioè va anche giù in basso. Radioamatori va e tutto quanto, da poi ascoltare ci sento, cazzo, i radioamatori si sentono sempre, a 7160 si sente, poi se vai giù in basso, se tu ti scrivi, quando apri la pagina scrivi il tuo nominativo e la città, giù in basso vai, puoi messaggiare con me, cioè non so se l'hai visto, giù in basso c'è scritto messaggia con, e tu messaggi con me o con chi vuoi. Anche il coso, come si saluti in gergo CT 7351 a tutti gli ascoltori eccetera eccetera. Non ho messo mi vai a guardare, c'è il nominativo mio intanto. Io stasera c'ho l'accesso, non l'ho visto. Guarda, c'è scritto doppio rum e poi ho messo il messaggio, dove c'è scritto messaggio eccetera, ho messo il messaggio. Forse magari è capitato il rasso della contattato il presidente senza saperlo. Gli ho mandato la QSL, gli ho mandato il gruppo Sierra Alfa, 1 Sierra Alfa 002, operatore Mark, da Milano. No, gruppo Sierra Alfa, un gruppo internazionale addirittura è. Bella storia, mi sono uscito pure. Sì, ce ne sono tanti in continente, è ancora, diciamo, all'avanguardia queste cose sono, specialmente i vecchi pionieri ottengono, tengono la, la bandiera sull'asta. Infatti, io pure lo volevo fare con Sardegna, un gruppo, al limite parlando col presidente che c'è a Milano, il gruppo Sierra Alfa. Questo spagnolo mi ha dato il numero progressivo 7030. Il numero. Il numero 7030 va sì. Alle 11:20. Ne ho spedito 8, 9 che sta qui pronta, ne ho spedito 2 stamattina pure. E mi faranno arrivando sicuramente, a giugno mi arriveranno, quelle che ho spedito e quelle che sto spedendo. Sì, tanto la cabina, 60 centesimi l'una mi viene. Perché praticamente le cartoline ce l'ho e le QSL lo stesso. Sto mettendo 2 cartoline in ogni QSL in modo che me ne libero. Uguale. Ho diverse una dall'altra. Capito? Alla gara. Ma sotto della Sardegna quella che c'è, di Sassa c'è. Non le guardate, ce n'è anche di usi, lo gatto. Ehi, ma luoghi di mare, mandali, ci sono proprietti già. Ehi, Santa Teresa di Gallura, insomma, gli avvenenti. Mando, mando, non ti preoccupare. Cazzo quel di polo, una bomba già. Ci siamo arrivati. No, non le frequenze. No, quello è solo per la 27555. L'ho fatto per lì. Se vedi se ve l'ho piazzato ti metti a ridere. Infatti vedo Antonio a salire che non vede. Cazzo, con questo immatricolatore è una bella. Stamattina 9:15 a Ragusa arrivavo, con la verticale mi sentiva Santiago 5, perché non c'era propagazione. Vuole c'è una direttiva, arriva più forte. Ah, tu l'hai fatto solo per quella frequenza lì, l'hai tarato per 27555, quindi solo chiamare e chiamare. L'ho fatto per, ti fa pochi canali, ti fanno, è stretto di banda, capito? Però se lo metto per esempio nel 21, l'accordo non è a stazionari, no, l'accordo proprio e va, è una bella. Invece nella frequenza sua non bisogna accordare niente, capito l'hai? Anche se è attaccato all'accordatore, perché questo come poco poco non è sintonizzato sulla frequenza sua, proprio non esce l'apparecchio. Ho capito. E beh, lo puoi fare a larga banda. Una cosa me ne frega, a me mi interessa per i 10, tanto più che direttivo è omnidirezionale anche. Esce benissimo, è una bella, in lontananza è di uso. Ma se vuoi te lo faccio sentire anche qua, mio, non fa problema, accogli un attimo che lo ti vedi come ti esci. Solo che giustamente arrivo più basso, però la radio non cambia. Fammelo sentire. Aspetta. Come questo signore me ne faccio uno io a tavola di quel polo là, a voi lo faccio. Prova. Vabbè, era già accordato, era. Guarda un po' come va, sono buoni qua. Guarda, ora, ma benissimo, come l'antenna di qua, e ci rispondo a questo, se non me lo la cola, se anche questo, via. Guarda, il segnale non l'ho guardato perché sono coricato, ma la radio non cambia. Oia, adesso non me lo faccio vedere, e qua come te la dico lì con il polo? Grazie. metri e non ha simmetrizzato, adesso glielo faccio in modo diverso, non una bobina come questo, ma glielo faccio in modo diverso e praticamente funzionerà la grande anche quella là. Eppure voglio provare a coinvertirlo e metterlo per i simmetri. Già ce l'ho, sai cosa ho fatto? Quando ho piantato l'altra antenna ho messo un tassello con un orsetto, perché se in caso mi viene voglia di metterci un'antenna piccola, la metto qua e l'ho attaccato al muro, di modo che quando mi serve posso mollarlo e metterci il tubo. Ma non dico lo puoi mettere sotto la mappa, ma manco ci vuole. Per il momento già c'è questa qua che va bene, la puoi, no, ma anche, ascolta, un dipolo PDX lo puoi mettere, è a ruota invertita come quello che ho fatto io, e poi lo vedi come il placimetrizzatore, cazzo, è della bella. Capito, là? Quando tu fai chiamata su 5555, quello 555, il canale di chiamata internazionale, senti meno QRL, perché con la verticale quando sono un notizio tra l'altro è un casino, cazzo, viene male. Eccolo già fermo, si presta uno o l'altro, ti chiamano i 50, mamma mia, fate da subito la frequenza e le faccio spostare. Infatti, conviene fare così. Ecco, il dipolo lo senti bene, casa, è una cosa diversa. Poi con quelle cuffie Sennheiser, boh, una figata. No, ma è quello per l'apparecchio che li usano. Io uso le soli per questo qua, solo per lo stereo, le Sennheiser. Quelle cuffie Sennheiser sono una figata. Non so, l'altra definizione è proprio hi-fi, si sentono quei bassi, Natali, una meraviglia. E io lo so, Guillaume, non l'ha di io. Non so, ma le fate comprare io? Quelle sono cuffie da studio, no, cosa, per me è una cosa da due soldi, ma lo sai poi quanto costano, non è che sono affrontata, no? Quelle si usano molto poco, comunque quando mi ascolto musica metto quelle lì, rendono una grande. Poi sono fatte apposta per gli impianti, per attaccare l'amplificatore, sono fatte, cazzo, sono fatta apposta. No, io mi ho comprato un altro paio soli, buono lo stesso, da DG, quelle lì le lasciate proprio esclusivamente per la musica. Poi lo so, infatti ho pensato usarle per la CB. Poi mi ho preso un paio di cuffie nuove per ascoltare proprio. Se mi voglio dedicare un po' al CV doppio, ci vogliono cuffie buone. No, ma io non mi piace, che ci vogliono CV doppio, non mi piace. Non c'è un rumore in te, non fa bene. Ma è quello che mi piace è discutere. Già lo so, è un modo come un altro. Tanto per cambiare, per vedere che velocità c'hai pulsato. Trasmettendo già sono veloce, a ricevere il problema è. La trasmissione già sono veloce, anzi a andare piano non ci riesco, ma la ricezione è tosta. sentire, metti un CV doppio qua, vai che ti mando un paio di battute così, scrivo ciao. Riconosce l'alfabeto e poi uno deve battere piano piano, perché sennò fosse il Commodore 64, te lo ricordi quel computer? Quello lì, se passavi i 100 all'avantil, e c'è gente che riceve con l'orecchio umano a 120. Ah, peccato, ma non mi

certi belli tutti erano con la bagliera. No, si caccia a macca, non so se pure, mi vedevo un una scuola a cazzo di zazzaggio, e poi come l'ho tratta a capo. Vabbè va, lasciamo perdere, cambiamo discorso. Dai. A fumarci la sigaretta ce lo siamo. Adesso. Non c'è voglia. E io che stavo mezzo di questa volta in chiacchierata, poco fa mi sono messo anche il pigiama. Allora basta. Allora basta, non c'è problema. Pensavo che eravamo tutti rilassati qua. Se vuole la porta, se vuole l'impulsato. Sì, vabbè, io che la roba arrivi. Però se possiamo essere, se lo compra è quelli grossi, e ci si va a guardare la mano. Che la faccia, no, quello. I soldi a togliere per queste cose non li togliono. Capace che vado a chiedere, ma a comprare questi non li toglie i soldi, no. Magari se ne andate a pigliare vino o cose del genere, sì. Beh, vivo che si è rubato il video, piuttosto si rimbeve. Si è un'altra persona e invece fa un'altra cosa. No, vabbè, comunque non siamo lì a sindacalizzare con l'affare. Cioè, hai capito tu, no, già? Sì, già sono qua, già. Ripetela, no, mi sta facendo un po' la pioggia, per quello che vuole uscire un po'. Ma si piace parlare in pigiama, ragazzi. Io già mi pongo un po' di pantaloni, non è ancora adesso che ho i scendi. Ma piazzalo, io sono in pantaloncini, maniche corte e maglietta, qua. Perché me ne sono appena svegliato, me ne sono addormentato dopo pranzo. E mi sono svegliato alle 8, ragazzi. Sono in maglietta, maniche corte e in pantaloncini. Cosa c'è? C'è un radio, vero? E perché a corto te ne sei? Ah, va. Fa sempre questi giochetti da salino? Questi giochetti li faccio anch'io, no? Sono natalino. Per non sfruttarlo al massimo, hai capito? E io stamattina stava bollendo veramente, gli toccavi il di dietro e di Ravuzelli, e l'ho cambiata per quello stamattina, perché cazzo era rovente. E voi dove siamo in attesa? Non mi dà, non si muove in mano. Ma chi no che si muove in mano? Cioè, più su fai meglio fare. E più aumenta il segnale anche. A vero? Io c'ho uno e uno, qua c'ho uno. Io pensavo che salisse invece che aumentare. Sono un po' veramente bene. E invece se metto il 10 sotto, vedi come salgo, salgo a 1 e 5. Sì, perché non è sotto, è già, lo sappiamo. E vuol dire che l'antenna è accordata su questa banda, capito là? Perché evidentemente è accordata su questa banda, invece la mia è accordata in quella di giù. È accordata, la frequenza normale. Evidentemente già hai salito troppo la spirale ed è accordata qui, quella che è più. No, l'abbiamo fatta insieme per le cose, l'abbiamo fatta sette. Ma un tanto di più che abbiamo dovuto salire perché dopo stato male, l'abbiamo appena fatto salita di più. E poi da Barbareno su tutti i canali. Sì, vabbè, ma forse è accordata meglio qua. Mi da 1 e 1, 1 e 3 mi pare cercava di sotto, no, com'è che sia accordata male? Non mi posso lamentare per come è accordata. No, non è accordata male, no, io ti sto dicendo, è accordata meglio su questa frequenza, meglio Bari di ex, venimi. No, infatti, no, anche se 45 va bene. Ehi, infatti. No, già, però ti ricordo l'altra volta, è 10 sotto, si dava problemi anche a te. Ehi, yeah. Cazzo, non mi sa una cosa, cazzo, lui, due è puro. Vabbè, scende, cos'era, 26. Non è tanto, eppure l'ho fatto. No, ma non è una questione di stazionare, o per perché di stazionare non me ne dava. Uno non so, forse qualche questione di cose di propagazione, di cose, faccio questo rumore strano. Insomma, mi ha detto che come mai, avrei guardato, tu avrei detto che erano finite 1 e 3. Sì, 1 e 3 sono ancora buone, poi non è che sia chissà quanto. Vabbè, però si stava a leggere. Oh, che poi non è che era un problema fastidioso, questo non era fastidioso. Più sale la frequenza e più corta l'antenna, capita cos'è per fare. E lì sul discorso della 28 si sì, già in 10 metri, è logico che salgono, cavolo. E visto due volte per esempio, sono andato a guardare l'antenna e ne mancava 1 metro in punta. Cazzo, perché nell'ascesa no, abbiamo tutta messa a posto, pronta a piazzare, adesso deve fare gli affari per i radiali, ed è pronta a piazzare, quando è pronta a piazzare la BSM mette questo video con 10 vittorie da boom. Mi ha già aggiunto più di 1 metro di stilo, ma guardate ce ne mancava, ci mancava il pezzo di sopra, caro grido, era per i 10 metri quell'antenna. Cosa hai detto oggi? Guarda, sembrava quello che si è separato con dentro un tubo, si sentiva proprio cosa, il rumore come fa quando tu soffri nel tubo, ce la presente. Non so, ma sì, vabbè, ma comunque sto accendendo, invece perché a Gianni non glielo fa se va oltre? Perché lui c'ha l'antenna che va fino ai 28, la pistola. E lui regge, invece, anzi, per andare proprio bene sui 28 dovrebbe accorciarla, capitola, perché più sale di frequenza più corta è l'antenna. Quanto me ne dà già a te di stazionare sui 28? Beh, non mi ricordo adesso per fare una fesseria, bisogna che ci fare a te. E l'altra volta mi sembra che avevo detto che si stava 1 e 1 sui 28, non saliva di stazionare, ma avevi detto. Aspetta, però. Perché forse la cordatura è su questa banda e riesce ad arrivare là. Cazzo, ma è tanto meno differenza, finché è poco, però se io salgo a 28, cazzo, va anche oltre i 2, ed è un bel mica avere 1 e 1 e sali di corda, cazzo, è un bel di differenza. Ma sale anche molto di frequenza, ecco perché salgono, perché devi accorciarla l'antenna, no? Se i 10 metri, i 28 sono 10 metri, la 27 sono 11 metri, un metro in più. Mi. Vabbè, ma non è che posso accorciare l'antenna per la 28 e poi, quanto male fare 27? Infatti, a te non ti conviene, i radiamatori se la accorciano, dopo se devono venire qua, accordano, hai capito? Io già la mia è corta, il cazzo vuoi accorciare, è 1 metro, ci accorci pure per la notte. Andiamo a provare su niente, 1 e 1. Lo vedi, a lui non gli salgo. Ehi, perché è accordata per questa banda qui, e quindi a lui non gli salgono per quello, poi magari è andato all'inizio, i radiamatori vanno a 28.500 e magari gli sale, capito? Solo che basta un accordaturino e accordi. Vabbè, comunque è un bella differenza. Nel senso, un bel cazzo, no? Sai come la dici misura. Probabilmente con l'antenna non arriva a 28 per... Siamo sugli 11 e loro sono sui 10. È un metro la differenza. Infatti Vittorio stava, l'antenna non c'ha niente, mi ricavo il dappo, cazzo, da Gestino che manca un po' di stile, avevamo bilato il decametro e ne mancava più di un metro. Il gioco di Zerri era un'antenna per i 10 metri, quella che stava usando Vittorio. C'aveva un pezzo d'alluminio nuovo, cazzo, gliel'abbiamo innestato, gli ho fatto la misura giusta, 7 metri 07. Lo stilo l'abbiamo tutto quanto guardato a vedere se c'era continuità tra i vari pezzi, abbiamo controllato la carica, la spirale l'abbiamo fatto fare bene, ma era tutta ossidata chi si antenna, è più fin via di sci. Come vedete già c'è la gioventù, comunque non è fatta per andare oltre la 27, questa antenna che ho io, e sicuramente è così perché infatti salgo a dismisura. Comunque con l'accordatore ci riesce per forza, ma quella qualsiasi antenna comunque. Ma no, io non ne uso mai, l'accordatore io ci ho incorporato lo strumento, però non si uso mai perché grazie a Dio non ci bisogno. L'ho usato solo in caso di estrema necessità. La parte che era una larga banda, no? Capitola, è logico che non li salgono a Gianni perché allarga banda l'antenna, poi già è accordata per qua bene e quindi vai sui 10 metri ma per le palle ne le passa l'antenna di Gianni. L'HP1000 c'ho per qua. C'hai? L'HP1000. Ma l'HP1000 c'hai? Sì, ma non lo so se è accordato quello. Oh, provati di sì, che accordi quello, 26.30, è così. Che cosa? L'HP1000 ha c'è scritto a quanto accorda già. Ma io accordo sempre, non c'è scritto nulla qua, ma sta lì niente, niente, qua, c'è due, no, niente, non c'è scritto nulla qua, d'accordo. Ma è 26.30 mi sa, già accorda sui 10 la HP1000, fa tutti i 10 metri. Sì, dovrebbe accordare. Già accorda quello di Gianni che da poi non se ne va tenuta in 10 metri, cosa era un banda radioamatoriale, ma per dire già accorda, bello avere 0.30 come quello che ho io, il mio accorda tutto, addirittura accorda anche i 6 metri. Vabbè, ma cazzo, risulta un carico di tizio. E mica tanto. E cosa mica tanto? Adesso lo so. E normale, siamo sempre, esperimenti. Se io non riuscivo qua, veramente, guarda, se io mi mettevo sul metrizzatore, gli dico non funzionava. Io qua me ne accorgo, magari nel baracchino non te ne accorgi, ma è no, più un ghiaccio, ti inabisi, a chi ti inabisi? Non usci l'apparecchio e vedi che c'è la stazionaria proprio. Se le stazionarie non sono a zero qua, non vanno. Io qua me ne accorgo. Qua un giorno non ti dico neanche niente. Ti metto a modulare, metto, perché ce l'ho smontato, metto l'antenna del VHF. Addirittura si muove la bimbata, ma ti dico un'unta, accordo, e da voi cazzo, il cavaggiamento di novità, dopo tutto il discorso ti dico che antenna è con la tua voce, e non ti accorgi la differenza. C'è una roba che affaccia. So. Come c'è una roba che affacciata? Se hai detto che non c'era più. la chiave in calcolo sulla corda, che non è che fosse lì, io. Si è fatto abbiare la cornacchia. Infatti, è sempre nero, ma non so bene. Tu che ci avrai dato un marcone. E tu, curracci nere, biondi non l'hai mai visto, che? A te, se te l'hai visto, te la carabina, siamo le vecchie pirificate, non la dico. Ecco, tu che fa fronti. È che non c'avevo posto a spare, se te l'avevo comprata io. Non c'avevo posto, non so dove andare. Quella era bella. Cazzo, lo sai i gabbiani come li buttano giù? Ah, vedi. Ah, sei potentissima, ti sto pensando di assustato mi fratello. I gabbiani, che lo sai, ti buttano giù, di brutto. Ma dalla barca spara. E allora, pagano le nostre mani hanno il pesce, questi cazzo di ribisoni. Ah, no, come ti si avvicina, i cazzo, e ne lampano in terra. Che ti sentì la cosa, funghi? Ehi, se li avessi fatto quelli in acciaio è peggio ancora. Cazzo, si è buccato una cabina di zinco, non era paro gabbiano, ma l'altro è potente. Come a molla e a pressione? All'aria compressa, Cosa dire a quella, peccato. Se dava anche il rinculo, lava di quanto era potente. Cazzo. Se sono presente che era una velva questa carabina. Cazzo. Purtroppo. Vabbè, è andata così. Ci prendiamo le pistole da tiro. Se potevo tirarsene in campagna testa con una pistola. Le pistole da tiro. E io dico le... quelle che fanno la guerra, non c'è così. Ah, ho capito. Che ti lasciano anche la macchina se ci metti in inchiostro. Ho compreso, soft tire, a gas sono quelle, mi sa. Cosa c'è in me? Ma vedono anche su internet. Ma se funziona, mi sa. E ci sono anche fucili. Lo so. Come funziona quella? Gas. C'è una bombola di gas, gliela metti e dà la pressione. Ascolta, ma lo faccio prima a tirare una bombola accesa, vedi se scoppia, se ho freddo. Secondo me è molto prima, Dai, non è la stessa cosa. No, lì sono quelle simulazioni di guerra, no? Sono delle grene, per dire, 10 contro 10, fanno anche il giorno di queste cose qua. Ma già, ti assicuro, se si entra in mezzo a poco, una bomba da 10 kg, nell'arco di 300 metri non ci rimane niente, quindi vai tranquillo che ci rimbatte anche la bomba. Ma tu sei di una mitardo, che? Se salite faccio esplodere la bombola. E il gabinetto, dove c'è tua moglie, questa è quella che fa la uscire, ha fatto uscire la moglie. Però adesso andate per il via, non carica della moglie per tre sanguloni. E poi ha visto che il gabinetto sta facendo scendi giù, questo lo volevano arrestare. Scendi giù questo e quell'altro, vi faccio esplodere tutti, ma lo sto dicendo a tutto questo, ti dicevo, tutto canta la capitiglia per incatenare, tutto canta la pasta di rubare, che ci ha fatto? Poi non fumi, non mi fai fumare in macchina. Ah, io vengo di mezzo, mi siedo sopra il tettuccio della capotta e può fumare le sigarette che vuoi. Anche la teca se ne può fumare. Ah, il Salvatore Barra Agricola, e come ti trovo, sei mio? Ah, in Natalina, quando ti trovo le ossa. Ah, quando ti trovo sei mio. Vero. Ah, te l'immagini questo Salvatore, eh? Come si chiama? Sono da Osido, ma se vuoi vengo ti prendo. Che cosa ci fai a Osido? Stavo di Racing, che era morto senza salirci. Quella baldracca polacca è andata, mi. Ah, sì. E allora, questo Barra Grigio hai ammesso, impari a farlo conoscere. Ma con le polacche, lui, con gli inglesi. Ah, lui è la più cifra che mi mangiava di su. Tra le polacche ce le ho, sotto i piedi ce le ho, se le vuoi se ne prendo un paio di polacche, polacchine e polacchette. Come? Thank you. lasciati già Magandarini. Allora, per prima cosa questo è la foto. Ma vai che ce l'ho preciso, mi basta spendere 100 euro e mi metto la scheda ecco dentro, e poi te lo posso dire io. Hai capito bello becco, che ce l'ho uguale a quello io. Vai, vai, prima di spendere 100 euro devi spendere 100. 100 euro solo spendo io, perché da me c'ha i canali, c'ha la il VAT, c'ha tutto. Quello che c'ho io, ci manca solo la scheda ecco. Minchia, lo sa Gianni, se non ci credi fatelo dire. Sì, ma adesso ci abbiamo una parola. E cosa me ne posso anche lineare, annaggio. Cazzo, del doppio modulatore non te ne fa niente, se non hai lineare ci vuole il linearone grosso per farlo spingere. Infatti a mio avviso spingono uguali, la stessa cosa. E allora? Anche io mi devo mettere sulla scheda in vettore se ce l'ho. Da 22 al mio, e da me ti posso vedere 10. Io lo so, io lo so se ce l'ho così, c'è anche le luci più volte, oltre tutto il resto, però non ce la scheda in vettore. Infatti, basta che me la compro su internet. Anzi anche di meno spendo di 100 euro, addirittura su internet c'è come piazzarla e tutto, figurati, me la piazzo pure io, non so di darmi. Sì, ma le regolazioni sono diverse. No, già si trova tutto su internet, non ti preoccupare, ma lo vedi se mi metto a fare quegli Alan 48 mi faccio i soldi. È vero. Sì, ma se la rovini la scheda era per 100 euro. Ma sera? Costa 40 euro la scheda, costa. E poi cosa c'è da rovinare? C'è da toccare dei trimmer e basta. Ma sera, Luca. Ciao. Già siamo qua. Dai, mi dai 500 euro più il tuo baracchino. Asco, se tu vedi quello che sto usando adesso ti spaventi, capito? Io baracchino che ti propongo a fare. Si vede che ci sono della tenda là, barra agricola da Suzia, di pari peso 500 euro fa un Alan 48. 500 euro trovo un signor apparecchio. E mi bara a me. Vabbè, la passione. Dico apparecchi così, però. 500 euro sono un bel soldo. Infatti. Eppure mi gira io, mi lo porto il mio. Ma me lo faccio io, e poi me lo prendo 500 lire. E da lui mi manca a fare Alan 48 a tutti i camionisti di forza. Gira io, mi pare, mi manca a fare che cose così, così era manco mi porto un po' così di là. Oh, ma se ci riesci a farle. Ma cosa cazzo ci vuole a farle? C'è tutto spiegato su internet. Tutto, mi. Ti gira la tardi. Se riesci a farle, ma ci vuole degli strumenti però. Ma cosa strumenti? A testa la scheda ecco. Oia. E la scheda dei canali. Non ci vuole nulla. Dopo gli aumento il condensatore del coso, del modulatore, ti faccio vedere il doppio modulatore senza il doppio modulatore. Se c'è una radio cazzo da far fare. Ma non vogliono allinearti la radio. Sto dicendo che su internet c'è tutto, come si piazza, tutto quanto. C'è scritto tutto, ti fanno vedere tutto, c'è lo schema proprio. Da me ci vuole solo la cosa, la scheda Echo ci vuole, e basta. E io sono andato a costa 40 euro su internet. Me la faccio arrivare la scheda accolta, la puoi dire un altro video se funziona, ma quello va bene per scassiare, e basta. Me la posso mettere in macchina, me la posso mettere per scassiare, a fare casino con i camionisti, ma... Manda retta in stazione fissami, poi mandano spuria che mi cavano in tutto canto, mi tolgono il filtro antifigua e tutto quanto. Allora sai le spuria che manda, le armoniche, non hai idea, chi sa fare. Se riesci a pensare, sa quello va, provaci a vedere un po' cosa. Se vedi che ti esce perfetto, continui a farlo. Infatti, se busco soldi per la scheda, ti faccio vedere, me la faccio arrivare e me la metto io. E da voi li posso, li gastate chi disini, vi li posso mangiare un bel niente. Stai calmo, Natalino, stai calmo, Natalino, c'è un po' freddo. Ehi, adesso c'è il sangue freddo, c'ho anche le balle raffreddate qua, mi c'ho l'alimentatore, gli ho messo due ventole, anche i coglioni mi sta raffreddando. Ecco un attimino che devo andare a vedere una cosa, dai, riprendo fra un po'. Eia. Stai calmo, Natalina, il sangue freddo, se non ti incavoli, stai calmo. Già sono calmo io, non sono incazzato, già sono calmo. E che me ne vado al mare, faccio il bagno. E allora, di notte? E allora di giorno. Tu se vedi l'apparecchio che sto usando adesso, lo sai quante ne escono di quei baracchini che c'è qui? Ne escono. Se lo vedi questo qui solo a vederlo, mi. Quello che c'è tu non li puoi più vedere tu. Che è? E mi fatelo vedere a Gianni, non te ne dico io qua. E uno sotto parlando che è Claudio. Non ho sentito nessuno io. E sul dinario, sul 10 sopra, ma la vedete che è un'altra banda lui, perché si sente quella. Magari perché sei vicino. Per quello E io non sento nessuno qua, sono lontano. E io dottor Gianni dottore. Vabbè, c'è prima sua. Tutti morti. Sì, ci sono io, perché qualche problema? No, problemi non ce n'è, no. È che sto facendo le mie sassari e venire lì a gonfiarsi le gomme. Sento, dottor Pierpaolo. Lo so, ma non c'è niente. Alle 10:30 inizia, mi sembra, così ha detto. Sono le 10:15 sono, così vi senti. 10:20 sono. E quasi è 20, è un quarto passato adesso. Alle 10:30 inizia, così è barra gri. Cosa inizia alle 10:30? La moto GP. Le 10:30 inizia, sono le 10:15, è 20 appena. Poi ci siamo. Ehi, adesso me l'accendo anche io dopo e me lo guardo alla faccia di chi non vuole. Capa capao. Vedi, ho un grido io. Così, ho parlato al baracchino e mi guardo anche il la moto GP alla faccia di chi non vuole. E pure io. Cada gara. Che spinne. Ma lo sai come lo faccio girare io quel baracchino che c'ha la barra agricola? Se ci parla. Esco come Luigi Vulcano. Stavo cercando di sovramodularti. E chi è che sta tentando di sovramodulare? Sono Gumaccio, mica. Non mi costringete, casa, perché mi volete costringere? Si tiene tutte le volte a stare, no? Sì, tutto il QRA si sì. Sto sopra qua come? Il QRM, non il QRA. Hola. diciamo, un po' forte di modulazione, sì. Hola. Oh, è fatto una nonna giù, certo. Io scenderemo, magari senti se scendere. Ma lui dice che non fa qualcosa di strano. Però sta vedendo bene, il segnale è tuo. Se sta iniziando questo cavolo di... come si chiama? Di MotoGP, se me la voglio guardare. Vediamo un po', ma tu sicuramente quella devi arrappellermi. Non per niente, ma devo l'ombrello. posto. Bello, domani sera ore 22 il concerto di Gambua. Una cosa ne sbaglia due. E quindi chiudiamo le trasmissioni in bellezza stasera. Ci sentiamo, là. Ciao Pierpaolo, ciao Antonio, chi altri ci faccia l'ascolto, puoi ripetere per me. Ciao Nazarimo!